Minestre in brodo. 7. Cappelletti all'uso di Romagna. Sono così chiamati per la loro forma a cappello. Ecco il modo più semplice di farli onde riescano meno gravi allo stomaco. Ricotta, oppure metà ricotta e metà cacio ravigiolo, grammi 180. Mezzo petto di cappone cotto nel burro, condito con sale e pepe, e tritato fine fine con la lunetta. Parmigiano grattato, grammi 30. Uova, uno intero e un rosso. Odore di noce moscata, poche spezie, scorza di limone a chi piace. Un pizzico di sale. Assaggiate il composto per poterlo al caso correggere, perché gli ingredienti non corrispondono sempre a un modo. Mancando il petto di cappone, supplite con grammi 100 di magro di maiale nella lombata, cotto e condizionato nella stessa maniera. Se la ricotta o il ravigiolo fossero troppo morbidi, lasciate addietro la chiara d'uovo oppure aggiungete un altro rosso se il composto riescisse troppo sodo. Per chiuderlo, fate una sfoglia piuttosto tenera di farina spenta con sole uova, servendovi anche di qualche chiara rimasta, e tagliatela con un disco rotondo della grandezza di 6 centimetri di diametro. Ponete il composto in mezzo ai dischi e piegateli in due, formando così una mezzaluna. Poi prendete le due estremità della medesima, riunitele insieme ed avrete il cappelletto compito. Se la sfoglia vi si risecca fra mano, bagnate con un dito intinto nell'acqua gli orli dei dischi. Questa minestra, per rendersi più grata al gusto, richiede il brodo di cappone di quel rimminchionito animale che per sua bontà si offre nella solennità di Natale in olocausto agli uomini. Cuocete dunque i cappelletti nel suo brodo, come si usa in Romagna. Ove trovereste nel citato giorno degli eroi che si vantano di averne mangiati 100. Ma c'è il caso però di crepare, come avvenne ad un mio conoscente. A un mangiatore discreto bastano 2 dozzine. A proposito di questa minestra, vi narrerò un fatterello, se vogliamo, di poca importanza, ma che può dare argomento a riflettere. Avete dunque a sapere che di lambicarsi il cervello su libri i signori di Romagna non ne vogliono sapere buccicata, forse perché fino dall'infanzia i figli si avvezzano a vedere genitori a tutt'altro intenti che a sfogliar libri, e forse anche perché, essendo paese ove si può far vita gaudente con poco, non si crede necessaria tanta istruzione. Quindi il 90% a dir poco dei giovinetti, quando hanno fatto le ginnasiali, si buttano sull'imbraca e avete un bel tirare per la cavezza che non si smuovono. Fino a questo punto arrivarono col figlio Carlino, marito e moglie, in un villaggio della bassa Romagna, ma il padre, che la pretendeva a progressista, benché potesse lasciare il figliuolo a sufficienza provvisto, avrebbe pur desiderato di farne un avvocato e chissà, forse anche un deputato, perché da quello a questo è breve il passo. Dopo molti discorsi, consigli e contrasti in famiglia, fu deciso il grande stacco per mandar Carlino a proseguire gli studi in una grande città. E siccome Ferrara era la più vicina, per questo fu preferita. Il padre ve lo condusse, ma col cuore gonfio di duolo, avendolo dovuto strappare dal seno della tenera mamma che lo bagnava di pianto. Non era ancor scorsa intera la settimana quando i genitori si erano messi a tavola sopra una minestra di cappelletti e, dopo un lungo silenzio e qualche sospiro, la buona madre proruppe: «Oh, se ci fosse stato il nostro Carlino, cui i cappelletti piacevano tanto!» Erano appena proferite queste parole che si sente picchiare all'uscio di strada e, dopo un momento, ecco Carlino slanciarsi tutto festevole in mezzo alla sala. «Oh, cavallo di ritorno! Esclama il babbo. Cos'è stato? È stato, risponde Carlino, che il marcire sui libri non è affare per me e che mi farò tagliare a pezzi piuttosto che ritornare in quella galera. La buona mamma, gongolante di gioia, corse ad abbracciare il figliuolo e rivolta al marito. Lascialo fare, disse, meglio un asino vivo che un dottore morto. Avrà abbastanza di che occuparsi coi suoi interessi. Infatti, da allora in poi, gli interessi di Carlino furono un fucile e un cane da caccia, un focoso cavallo attaccato a un bel barruccino e continui assalti alle giovani contadine.